Questo lavoro sì, è effettivamente decisamente anche seduttivo, è come buona parte insomma, delle musiche di Claude Debussy. Tra l'altro la produzione di questa compilazione eccezionale che è Replay Debussy è proprio Christian von Borries, quindi è come dire anche qua una ricerca di una identità, in questo punto legata al Novecento, alle prime forme di avanguardia, alle grandi momenti di rottura insieme a Debussy, chiaramente l'impressionismo sonoro di Satie porteranno lontanissimo le musiche, ma già appunto von Borries, l'abbiamo ascoltato, trattava Wagner già come primo momento quel futuro che si stava di là pochissimo preannunciando e che va proprio a essere trattato e ritrattato, in questo caso appunto dentro Replay Debussy, in maniera decisamente eccezionale da parte di grandi personaggi. Abbiamo ascoltato Terry Telmiz, ma dentro questo lavoro c'è Hervé Lussier, Jamie Liddell, quindi legato alla techno, anche qua molto transgender, e Sakamoto, lo stesso von Borries, Pierre Henry, e anche Porter Riggs, che appunto abbiamo ascoltato dopo, Terry Telmiz. Storico progetto di quella techno tedesca più profonda, più legata, se il termine non portasse insomma anche ambiguità, minimale, ma nel vero senso della parola, nel senso che appunto negli anni 90 si esploravano, alla fine degli anni 90 si esploravano i microsuoni della techno, legandole con ambienti dub. Infatti stamparono Biokinetics, disco assolutamente storico da parte appunto della techno sperimentale, per la Chain Reaction legata alla Basic Channel di Moritz von Oswald, quindi una Berlino assolutamente suprema nel suo trattare la techno, forse anzi senza forse seconda città dopo Detroit per importanza appunto legata a questa attitudine appunto techno e tecnoide e rifacimento, quindi la ricostruzione, la rimanipolazione del materiale di Wagner dentro lo spazio del Palast, del Republic berlinese, e lo spazio mentale sonoro esplorato dentro a Debussy Replay, e uno spazio sonoro musicale in termini più larghi, sicuramente da parte dell'ultimo disco l'ultimo lavoro, Fatica di Colin Stetson insieme a Sarah Neufeld, che va come tra l'altro già negli altri lavori del grande autore, compositore Stetson, va appunto a toccare corde molto, molto delicate, come anche momenti così che si vanno anche a scontrare con emotività musicali che non perdono in sperimentalità, quindi è anche così una dialettica che si mantiene, quasi un magico equilibrio tra composizione, quindi anche scrittura piuttosto ferrea di Colin Stetson. Momenti liberati di musica, un'identità appunto che riesce a trovarsi proprio dentro questo atteggiamento musicale sonoro che porta grande, grande respiro. Anche in termini di cantato, addirittura momenti di così superlativi a livello di narrazione sonora, appunto attraverso la voce che Colin Stetson insieme a Sarah Neufeld fa in questo lavoro uscito da poche settimane, che come dire conferma un'identità appunto questa ci vuole veramente forte dentro quello che può essere definito post jazz in termini molto larghi, ma composizione insomma tout court forse è il termine più adatto per Collie Stetson. Ce l'andiamo appunto a trarre da questo lavoro Never Were The Way She Was, appunto uscito nel 2015, quindi insomma piuttosto recente. eccezionale quello di Colin Stetson, veramente sembra di ripercorrere un certo Arthur Russell per questo senso così enigmatico anche di porre in maniera emotiva la musica, ma anche questo senso mentale compositivo che è legato a questi grandi ampi spazi e sia concettuali che proprio anche fisici. La musica riporta sicuramente a momenti di anche di fisicità, appunto, e di spazialità, di come riempire lo spazio, e quasi come alla ricerca, appunto, di un'identità anche forte dentro un ambiente. E Colin Stetson quindi sembra quasi prendere sia quelle che sono state le mosse di molti minimalisti poi dati come Alvin Lucier al rapporto e alla sperimentazione dello spazio, utilizzando appunto meccanismi minimi appunto per creare appunto grandi e ampi spazi sonori, come invece momenti che vanno quasi a toccare il folk, quasi una dimensione che appunto ricerca un'intimità che comunque vuole essere sempre di un linguaggio piuttosto ampio. Si potrebbe anche utilizzare il termine popular senza però cadere chiaramente nell'errore, insomma, di parlare di contrazione, quindi pop, che anche c'è volendo in Colin Stetson, in questo caso con Sarah Neufeld per questo disco ultimo del 2015, ma veramente più popular nel senso più largo del termine, quindi è una sorta di creazione di un linguaggio anche possa essere comune, recepito, ecco, dai più, e che però possa essere toccato proprio a livello anche così di corde intime e di valori identitari, no? dentro un suono che appunto è tanto sperimentale quanto dialogante poi con questa grande appunto emotività che riesce a passare Colin Stetson. E per andare un po' a chiudere, una chiusura che ovviamente come sempre non può essere tale, o può essere tale soltanto parzialmente, lo dicevo insomma all'inizio della trasmissione, di queste identità probabili o probabili identità, ecco, di fatto insomma sperimentabili dentro il suono, le musiche ricercate e di ricerca anche appunto di queste identità. Beh, uno dei grandi capisaldi dell'improvvisazione, delle musiche altre, del anche impeto deflagrante, violento, da grande scontro anche quasi epico, insomma, dentro una musicalità che si fa quasi bestiale. Peter Brotzmann, appunto abbiamo ascoltato prima il figlio Gaspar, con lo storicissimo lavoro del 1968 con il suo ottetto Machine Gun, personaggi insomma come Bushy, Niebergall, Peter Kowald, Ann Benning, grande Sven Anke Johansson, Gunther Zifelius per quanto riguarda come ingegnere del suono, l'impianto ingegneristico, Fred Van Hove, l'altro grandissimo Evan Parker, e William Broecker per appunto uno dei dischi più epocali di sempre per le musiche anche proprio decisamente legate a un'identità molto antitetica, anticonformista e anticapitalista per molti aspetti. C'è proprio quasi anche un immaginario di militaresco di scontro che viene portato avanti da musiche come quelle appunto di Machine Gun, che accompagnano quasi una sorta di viaggio comune, e anche proprio gli scontri del 68, il momento insomma conflittualità alta di alcuni momenti storici come appunto quell'anno, musiche che quindi ancora riescono forse chissà per quanto tempo lo saranno ancora, riescono a essere vive, vitali, ancora fortemente appunto identitarie, riconoscibili come tali, ma aperte appunto anche rispetto a un futuro e anche appunto a un contraddittorio che di fatto, e in questo termine appunto diventa anche l'assalto alla struttura musicale, oltre che appunto alla struttura musicale vista anche in termini sistemici, quindi di struttura generata anche da un sistema, dal sistema capitalistico. Non esagero parlando di musica che si fanno politiche, ma non nel senso insomma narrative più dirette, ma appunto come impeto, come impatto, come elaborazione appunto violentata del suono e delle musiche. Peter Brotzmann con il suo Machine Gun, appunto già il titolo ci dice quasi tutto, per concludere insomma questa serata legata alle probabili identità di 451 frammenti sonori. Max Macchi appunto vi saluta su queste violentissime onde sonore del sax di Peter Brotzmann e degli altri guastatori sonori. Vi rimanda a mercoledì prossimo. Ringrazio ancora chi mi ha fatto compagnia direttamente e indirettamente, chi ci farà compagnia sul blog 451frammentisonori.noblogs.org, chi lo cura, Lorenzo Albano chiaramente. Vi rimando sicuro alla trasmissione di lunedì anche di Eliseo Scarpa, 451 intersezioni. E insomma, come alcune volte dico, ma adesso da un po' che mi mancava, fate i bravi, Machine Gun.